Giovedì 29 settembre del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Siamo al Cinema di Visionari tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ci ascoltate su queste frequenze ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e la trasmissione potete consultare il sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissione Visionari, la pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info ed eccoci con Antonello Centomani di Movie Day per parlare con lui dell'evento distribuzione 3.0 al cinema Plinius a Milano il prossimo 2 ottobre. Antonello, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ben ritrovato a te e a voi che siete in ascolto. Allora, quasi un anno fa ci eravamo sentiti per il progetto Movie Day, ti chiedo subito allora intanto nel frattempo cos'è successo? Allora, successo che appunto siamo molto contenti perché Movie Day nel frattempo è cresciuto moltissimo e attualmente la piattaforma è collegata ad oltre 120 cinema in costante aumento e quindi adesso a un anno di distanza presentiamo anche dei nuovi servizi già appunto migliorati rispetto appunto al passato e le opportunità per tutti i filmmaker e produttori e distributori che possono sfruttare le possibilità della piattaforma. Ecco, proprio a questo proposito, scusa se ti interrompo, facciamo un passo indietro, allora spieghiamo un po' a chi non è stato all'ascolto lo scorso anno qual è il progetto Movie Day. Esatto, ricordo che la piattaforma Movie Day è la prima piattaforma web in Italia che permette a chiunque di organizzare delle proiezioni nei cinema di tutta Italia, come dicevo circa 120, quindi chiunque può scegliere un film, un cinema, un giorno e organizzare una proiezione evento a patto di raggiungere un numero minimo di persone. Infatti quello che è importante su Movie Day, soprattutto per i produttori e i filmmaker e anche i distributori più o meno indipendenti, che si riesce a raggiungere il film, riesce a raggiungere i fan che vogliono vedere quel film. Quindi Movie Day offre l'accesso alle sale in modo automatico, un po' click, perché basta organizzare appunto degli eventi sulla piattaforma, offre anche la logistica di spedizioni e anche i pagamenti appunto dopo che sono state fatte. E inoltre appunto le novità che presentiamo in particolare è che abbiamo sviluppato un sistema di marketing dedicato appunto per creare campagne di eventi di successo. Facciamo l'esempio di un documentario indipendente che appunto quest'anno riceverà anche il primo Movie Day Award perché ha fatto il maggior numero di eventi tramite la piattaforma. È un documentario piccolo, si chiama Learning, che ha fatto 100 proiezioni in quasi tutti i cinema collegati, con quasi tutti sold out, portando appunto 15.000 suoi fan nelle sale a vedere il film. E la novità è che appunto abbiamo sviluppato appunto una figura nuova nel panorama del marketing, della distribuzione, per appunto creare delle campagne di successo che sono le film campaign agency, cioè sono esperti di comunicazione che sono anche esperti di utilizzo di Movie Day, in modo che possono progettare fin dall'inizio una campagna di eventi insieme appunto alla produzione per appunto anticipare di qualche mese lo sviluppo della fan building e poi creare gli eventi e portare i fan al cinema a vedere il film. Senti, come si caratterizza questa giornata al Plinius di Milano? Allora, presentiamo appunto Movie Day con i nuovi sviluppi, quindi tutte le sale collegate che ci sono, presentiamo i servizi che offre Movie Day, quindi come dicevo la possibilità di creare eventi in tutte le sale, il sistema di logistica è a servizio appunto della produzione, il filmmaker, in modo che non ci si debba preoccupare di niente se non della campagna di eventi, quindi la promozione, di fare in modo di realizzare una campagna di eventi di successo in base alle proprie, i propri obiettivi, risorse, disponibilità. E poi ci sarà la consegna dei Movie Day Awards, i primi quest'anno, che verranno consegnati al film che ha realizzato il maggior numero di eventi e anche al cinema che ha realizzato il maggior numero di eventi, che in questo caso appunto è il Plinius. Ci sarà anche un presentatore d'eccezione, che è un Filippo Solibello di Radio 2, che ci conosce dall'inizio, ci ha battezzato in varie presentazioni, e sarà appunto molto, durerà 2 ore, sarà in diretta streaming, quindi chiunque potrà seguirlo, basta appunto seguirci sulla nostra pagina Facebook, perché domenica chi non si è registrato su Eventbrite può vedere il link a cui accedere e seguirci in diretta streaming per vedere appunto dal vivo la presentazione con le opportunità che ho accennato adesso. Senti, a questo punto i riferimenti ce li hai dati, Antonello, ci sentiamo per le prossime novità. Assolutamente, vi ringrazio, seguite la diretta streaming, quindi basta andare sulla pagina Facebook di Movie Day, seguirla, così si avrà accesso al link per seguire la diretta. Benissimo, un abbraccio. Grazie mille a voi, a presto. Ciao. Antonello Centomani di Movie Day sull'evento distribuzione 3.0 al Cinema Plinius a Milano il prossimo 2 ottobre. Allora, parliamo adesso dell'On the Road Film Festival al Cineclub des Tours qui a Roma da oggi 29 settembre fino al 2 ottobre. Ne parliamo con Sergio. Ci sei, Sergio? Ci sono, eccomi qui. Ben ritrovato. Allora, io mi rendo conto che è un po' complicato spiegare il nostro festival a partire dalle date, perché è un festival diffuso diciamo nel tempo e nello spazio, quindi in realtà cioè, posso correggerti, oggi inizia la masterclass che è all'interno del On the Road Film Festival, ed è una masterclass che, come hai detto giustamente, comincia stasera con una proiezione e poi andrà avanti fino al 2 ottobre. Masterclass che ospiterà per la seconda volta in Italia Arthur Aristakisyan, ed è un regista russo con origini miste, armeno e insomma varie nazionalità della ex Unione Sovietica, un regista di rottura che ha un metodo straordinario. È più che una masterclass, sarà un'esperienza esistenziale per chi avrà la fortuna di parteciparvi. E sicuramente molto on the road, quindi molto nelle corde del nostro festival, perché oltre a stare qui al The Tour si andrà in giro dalle parti della stazione Termini, questa sorta di Finisterre dove Arthur e le persone che frequenteranno la masterclass avranno la possibilità di fare degli incontri, di avere delle percezioni, di riprendere oggetti della nostra realtà quotidiana e cercare di vedere in questi oggetti una realtà più profonda, per avere una sorta di visione reale che vada oltre la quotidianità. Il titolo della masterclass potrebbe essere considerato accattivante per alcuni, ed è "Solo i morti possono girare film e scattare foto". E la masterclass è organizzata da Noeltan, da questa società di produzione e formazione, c'è cioè la collaborazione di Fuori Orario Rai 3, la collaborazione della Moscow School of New Cinema, e insomma siamo orgogliosi e felici di ospitare Arthur e la masterclass all'interno dell'On the Road Film Festival, che poi si svolgerà nella sua forma diciamo più compiuta e arriverà quindi al culmine con le fasi di concorso, ma questo sarà solo a fine ottobre, dal 23 al 29 ottobre. Magari, non so, Federico, avremo occasione di riparlare dei film del festival in una prossima trasmissione, se ti va. Per stasera mi limiterei a dire che c'è questo film straordinario di Arthur che si chiama Palms, è un film che è diviso in 10 capitoli, racconta l'esistenza abbastanza miserabile di personaggi di senza casa, di mendicanti nella Russia di oggi. È un popolo di barboni, derelitti, senza tetto, malati di mente, emarginati di tutti i tipi, che si riversano nelle strade della città, anche per effetto del dissolvimento definitivo anche di quel welfare che rimaneva come, diciamo, eredità del regime sovietico. È sicuramente un film che è fuori dai canoni dell'estetica del bel cinema, del cinema patinato. È un autore, come ho già detto, di rottura, quindi il suo è un cinema primitivo, si è basato tutto sull'immagine essenziale. E questo è il primo film che proietteremo di Arthur, stasera alle 8 ci sarà l'incontro con Arthur e con Enrico Ghezzi. L'incontro che poi verrà ripetuto anche domenica 2 ottobre, quindi al termine di questo percorso di Masterclass. E il film di domenica invece si chiama Un posto sulla terra, e di nuovo incontreremo questo popolo di senza tetto, di marginati. In questo caso si tratta in particolare della periferia di Mosca. E il film ha un esito narrativo più compiuto di Palms. In questo caso si tratta di un fondatore di una sorta di comunità mistica, un personaggio carismatico e al centro della narrazione, con una visione sociale estrema e una sorta di profeta, di santo predicatore, ed è tratto da chiaramente sempre molto liberamente tratto da una vicenda reale. E questo succederà domenica 2 ottobre alle 19. Per quanto riguarda il festival, avremo delle anteprime assolute, anteprime italiane, anteprime romane, il film in concorso sia nella sezione lungometraggi che cortometraggi. Il tema è sempre il nostro caro cinema on the road, quindi viaggi, cineviaggiatori, frontiere, travalicamenti, deviazioni da percorsi sempre stabiliti. La giuria, siamo felici di poterla anche comunicare ufficialmente, ci sarà come presidente di giuria Mariuccia Ciotta, poi avremo Donatello Fumarola, e nella giuria dei cortometraggi ci sarà Chiara Rapaccini come presidente di giuria. Insomma, un festival che vuole continuare un percorso che abbiamo iniziato già 4 anni fa, che ci porta, dopo la tappa romana al The Tour, a intraprendere un tour nella nostra regione, quindi tentando di raggiungere anche territori difficilmente percorsi dal cinema, diciamo, durante l'anno. Questo è un po' quello che possiamo dire adesso, poi magari sveleremo, se vi va, più avanti altre storie. E per ulteriori informazioni l'indirizzo internet è sempre lo stesso: www.cinedetour.it. Benissimo. Allora, Sergio, un abbraccio e ci si sente prossimamente. Grazie Federico. Un abbraccio a te e un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao. Sergio Ponzio sull'On the Road Film Festival al Cineclub The Tour a Roma fino al 2 ottobre. E ritroviamo Edoardo De Angelis, regista del film Indivisibili, in uscita in sala oggi, giovedì 29 settembre. Edoardo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao ragazzi, ben ritrovati a voi, veramente. Era dai tempi di Mozzarella Stories che non ci sentivamo, quindi è passato un po' di tempo, Edoardo. Sì. Complimenti per questo film, l'ho visto qui a Roma la presentazione stampa. Per chi ci ascolta, diamo qualche indicazione di trama? Certo, questa è la storia di due gemelle siamesi cantanti che con il loro bel canto danno da vivere a tutta la famiglia, e la famiglia si muove come una sorta di piccola industria equilibrata dove ognuno ha il suo ruolo. Questo equilibrio però si rompe quando queste ragazze a 18 anni scoprono di potersi dividere. Esatto. Allora Edoardo, ci dici un po' come nasce questo progetto? Sì, nasce... Io volevo fare un racconto su di formazione. Sì. E in particolare volevo descrivere come la formazione, la crescita passa attraverso la separazione, e la separazione comporta dolore. E comporta dolore non solo la prima separazione che noi conosciamo, quella tra genitori e figli, ma comporta dolore anche la separazione tra fratelli, tra migliori amici, tra innamorati. Ma soprattutto il mio motivo personale era indagare sulla difficoltà e il dolore che comporta separarsi da una parte di se stessi. Ora, le gemelle siamesi erano, diciamo, la sintesi visiva, sì, per poter raccontare questo sentimento. Sì, sì. Daisy e Viola, per poter crescere, devono letteralmente tagliarsi. Senti Edoardo, in fase di scrittura su cosa avete messo le mani? Quali sono stati i vostri riferimenti? Su cosa abbiamo messo le mani? Abbiamo cercato di panare questa vicenda con lo sceneggiatore Nicola Guaianone e Barbara Petronio, e la costruzione del racconto volevo che fosse il più semplice possibile. Sì. Volevo che si concentrasse molto sulla trasformazione di queste due ragazze, e in riprese e poi successivamente al montaggio questa scelta è stata operata in maniera sempre più radicale. Infatti anche tante scene scritte e poi girate sono state tagliate perché riguardavano gli splendidi personaggi secondari di questo film, ma ho preferito andare avanti per una strada più radicale. Volevo stare sempre con loro, con le loro paure, i loro desideri, anche perché stare su di loro non significava stare su un unico personaggio, che ogni volta che ho fatto un primo piano era sempre un primo piano a due. Mm-hmm. Ogni volta un campo sulle due gemelle era sempre contemporaneamente un controcampo. Erano due personaggi, ma in realtà come le forze antagoniste all'interno di un personaggio solo, paura e desiderio, l'uno contro l'altro, una volta vince l'uno, una volta vince l'altro, chi vince alla fine lo decide il film. Sì, sì. Edoardo, in merito all'ambientazione e ai personaggi, la bruttura estetica e la bruttura etica vanno a braccetto? Sì, l'ambiente è specchio della storia e dei personaggi. L'ambiente rappresenta una bellezza che è stata violentata, e il territorio porta su di sé le cicatrici di questa violenza. Questa violenza è la stessa che gli individui perpetrano su se stessi, e quindi il decadimento ambientale corrisponde a un decadimento etico, un decadimento morale. All'interno di questa decadenza, che però non è priva completamente né di amore né di un forte desiderio di ricostruzione, all'interno di questo, dicevo, si staglia come una lama di luce la purezza e l'innocenza di queste due ragazze, che per crescere dovranno abbandonare questa innocenza. Mm-hmm. La figura del prete, Edoardo? È ricalcata su una serie di personaggi che ho incontrato proprio lì a Castel Volturno. Considera che soltanto nel comune di Castel Volturno ci sono 70 chiese pentecostali. Puoi reperire nelle villette della Domiziana delle piscinette fuori bordo dove ci sono personaggi locali che fanno proseliti tra i nigeriani e li battezzano in queste piscinette. Questi individui in fuga dalle loro terre, dalla fame, dalla guerra, sono afflitti dal vizio grave della speranza, e sono le loro anime così assetate di speranza, sono terreno fertile per individui che invece hanno intenzione di sfruttarla questa speranza. E questo prete individua in Desi e Viola, le due gemelle siamesi dotate del dono del bel canto, una sorta di icona sacra da dare in pasto ad individui affamati, appunto, di speranza, e vuole costruire la sua chiesa nuova proprio su questo grosso equivoco, su questa grossa menzogna di finte religioni, finti miracoli. Ma tutto questo non è sufficiente per seppellire definitivamente invece la purezza, il desiderio, la forza di queste due ragazze. Abbiamo perso la linea. Eccoci con Andrea Pierdicca per parlare della campagna di crowdfunding in pieno svolgimento per la realizzazione del documentario Con i piedi per terra. Andrea, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao Federico, grazie mille, buongiorno a tutti. Ti seguo sempre, quindi non potevamo mancare questo appuntamento. Parliamo allora partiamo da dietro, dagli inizi di questo cammino, Andrea. Raccontaci un po'. Ma guarda, l'inizio di questo cammino, come forse avevo già accennato l'ultima volta che ci siamo sentiti così in onda per l'intervista, che eravamo poi appena ritornati dal tour, l'inizio del cammino è un inizio un po' antico, perché è un progetto che è specchio di un percorso. Questo percorso inizia nel 2006, quindi 10 anni fa, iniziando a portare il teatro fuori dai teatri. La prima esperienza è stata quella del Fiume Rubato, dicevamo un attore del popolo da riportare al popolo, che dopo aver fatto più di 100 date in tutta Italia, l'ultima data l'abbiamo fatta a Parigi, si è trasformato il percorso, il gruppo, il lavoro. Abbiamo poi dedicato tempo per allestire un nuovo spettacolo di narrazione e musica che ha girato nei teatri e sta ancora girando con gli Yo-Yo Mundi. La stessa versione on the road è uscita dai teatri, ha girato anche lei per più di 100 date un po' in tutta Italia. Quindi dal Cantico delle Api, questa versione on the road è nata La Zappa sui piedi, il primo tentativo di fare un video documentario sulle questioni riguardanti l'agricoltura, la campagna, il cibo, il rapporto uomo-ambiente. Dalla Zappa sui piedi, che è stata una prima esperienza fortunata, tra l'altro, in avanti. Tra l'altro l'abbiamo anche ospitato al radioteatro insieme al Fiume Rubato. Fiume Rubato, che è stato il primo spettacolo in assoluto del nostro radioteatro, quindi è ancora un ricordo vivo e insomma è assegnato l'inizio di un'esperienza. Sì, veramente, guarda, le radici sono belle da riandare scoprire, sì. Quindi niente, dalla Zappa sui piedi siamo andati avanti, abbiamo rilanciato con questo nuovo progetto Viaggio tra Terra e Cielo. Iniziato un anno fa, l'anno scorso, con all'interno 3, come dire, prodotti artistici, chiamiamoli così, una web story, un film documentario, un nuovo spettacolo teatrale. L'anno scorso, il 15 settembre, siamo partiti, abbiamo fatto 4.000 chilometri per l'Italia, le campagne italiane, più di 26 tappe, 70 interviste. A un anno stiamo concludendo il video documentario e stiamo iniziando i lavori del nuovo spettacolo teatrale. La web story è già online e quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo investito con autonomia soldi, forze, impegno e energia da parte di tutte le persone del gruppo, ma siamo stati costretti a chiedere aiuto attraverso un crowdfunding per poter realizzare le fasi più costose di questo progetto, sì, che è la post-produzione del video documentario e l'inizio dei lavori del nuovo spettacolo teatrale. Com'è composto il documentario, Andrea? Guarda, il documentario è, come dire, non c'è una sceneggiatura, la Zappa sui piedi c'è più un andamento, no? Un discorso unico che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. qui invece abbiamo cambiato poetica. Noi siamo andati in giro per l'Italia a riprendere persone in prima linea in agricoltura, cioè coraggiose, appassionate, leali con la terra, che stanno dimostrando che è possibile coltivare la terra lealmente, senza chimica, senza pesticidi, senza concimi chimici e tutto il resto. Quindi è possibile sottrarsi alle logiche dell'agroindustria con un recupero millenario di tecniche agricole, con un ingegno moderno di utilizzare la tecnologia a favore dell'ambiente e non contro. Quindi siamo andati in giro a raccogliere le testimonianze vive, io li chiamo gli eroi che in silenzio e sottovoce stanno facendo dei lavori meravigliosi, esemplari. Quindi il documentario inizia un po', come anticipo questo, inizia con la follia dell'Expo. Siamo stati all'Expo l'anno scorso a fare delle riprese, inizia quindi con questa grande giostra che è l'Expo, sì. E poi via, andiamo nelle campagne a vedere l'alternativa a un modello, come dire, industriale e mondiale di approccio con l'agricoltura e il cibo, e l'alternativa è radicata sia in Italia ma nel mondo. Questo documentario parla della contadinanza italiana. Poi con lo spettacolo teatrale ci allargheremo di più e andremo a guardare la contadinanza nel mondo, quindi dai Senterra alla Via Campesina a tutti quei movimenti in India di contadini che stanno muovendo forze, risorse, intelligenza e realtà che all'oggi è l'unica via percorribile. Andrea, quindi ci sono delle pratiche virtuose che funzionano, e volevo chiederti anche se sono in rete, sono tra loro collegate? Sì, è un movimento di persone, idee, associazioni, movimenti. In Italia c'è l'associazione del biodinamico, c'è tutto il filone del sinergico, c'è tutto il mondo della permacultura, c'è una tradizione millenaria che è stata tramandata da padre in figlio e, come dire, corrisponde, è in sinergia, è la stessa cosa di queste altre pratiche nominate con delle tradizioni steineriane, però alla fine sono tutte parenti tra di loro. Le pratiche virtuose hanno un minimo comune denominatore, che è quello di conoscere la natura con le sue leggi, ed è una cultura che, come dire, chi lavora la terra l'ha persa nel tempo, perché l'agroindustria ha cominciato lei a dire come si deve fare, quello che devi mettere, e quindi piano piano la figura del vecchio contadino che sapeva di geografie, territori, suoli, acque, piante, clima, trasformazione, la grande cultura contadina piano piano si è andata a disseccare e ci si è ritrovati a leggere le etichette che l'azienda agroindustriale di turno ti dà per fare il tuo lavoro, mentre invece quello che abbiamo cercato di fare è recuperare la grande cultura, la grande dignità contadina. Poi noi in Italia abbiamo un paese che è agricoltura e cultura, sono due forze potentissime, tutta la tradizione del periodo post garibaldino, tutto il brigantaggio, tutte le lotte dei contadini degli anni 50, dalla Sicilia ai moti della Lunigiana, in tutta Italia, il contadino che veniva da una condizione di mezzadria molto faticosa e difficile, ma tutto quello che poi è diventato, per esempio, la consapevolezza nelle fabbriche negli anni 70 degli operai, aveva le sue radici dalla contadinanza. Mm-hmm. Quindi la contadinanza è proprio un mondo culturale da riportare alla luce, perché è tanta ricchezza. Andrea, ci lasci di nuovo tutti i riferimenti per saperne di più e per contribuire alla campagna? Molto volentieri. Allora, il sito di riferimento è www.radicinelcielo.it, al cui interno le indicazioni per il crowdfunding e la campagna che finirà il 17 ottobre. Come premio e riconoscimento alle donazioni ci sono cose molto interessanti, perché diamo laboratori di professionisti, laboratori di teatro, di narrazione, laboratori di digitalizzazione, laboratori sulle fiabe, letture recitate in musica. Quindi c'è uno scambio comunque solidale molto interessante e nuovo per un crowdfunding, dove se uno fa una donazione in cambio riceve l'opportunità di avere la docenza di laboratori o letture recitate in musica, che è un sottoprodotto di questo progetto. Benissimo. Allora io t'abbraccio, chiaramente le porte qui del Radio Teatro sono aperte per il nuovo spettacolo, speriamo a presto. Grazie a tutti, grazie Federico. A prestissimo. Ciao, t'abbraccio. Ciao Andrea. Ciao. Andrea Pierdicca sul crowdfunding per il documentario Con i piedi per terra. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio, sul ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari e sulla pagina Facebook di Visionari. Ecco, abbiamo recuperato il collegamento con Edoardo per concludere la nostra chiacchierata. Mentre abbiamo perso la linea, mi veniva in mente un'altra curiosità, Edoardo, rispetto all'universo del neomelodico, che è una realtà squisitamente partenopea, ha delle strane commissioni con la criminalità organizzata ed è veramente diffusissimo. Ecco, viene anche riportato nel film. Che ne pensi di questo universo, di questa realtà? Guarda, noi, cioè, una cosa che mi ha sempre affascinato del mondo della musica napoletana, che definire neomelodico è riduttivo, certo, insomma, perché è un mondo che abbraccia veramente molti generi, ma l'aspetto veramente bello è che tradisce una dimensione autarchica del Sud Italia, in particolare di Napoli. Cioè, noi produciamo e consumiamo i nostri divi e vengono idolatrati alla stregua dei divi internazionali. Questo lo trovo un'altra delle splendide espressioni di libertà di una civiltà che è sempre stata e sempre resterà profondamente anarchica. E io questo l'ho raccontato, sì, con il mio sguardo di innamorato, ho raccontato questo padre poeta popolare che cerca di, insomma, di emergere, perché anche lui ha le sue fissazioni, le sue passioni che vengono da oltreoceano, ma si esprime in un modo da poter essere compreso nella propria terra, perché una caratteristica comune a molti di questi artisti è questo desiderio perenne di fare il salto, di andare verso la platea più ampia, di fare il salto verso la lingua italiana. Ecco, io è un salto che non auguro a nessuno di questi artisti, perché sono belli così quando si esprimono, sì, in napoletano, perché sono veri interpreti di una sensibilità popolare che altrimenti non troverebbe nessun altro interprete. Edoardo, da oggi in sala, in quante sale sarà? Esce in circa 120 sale. È una bella uscita. È un'uscita, diciamo, proporzionata. Abbiamo cercato di prediligere le sale di centro città, il circuito di un cinema cosiddetto di qualità, perché è un film che richiede l'attenzione dello spettatore, ma in cambio restituisce una forte emozione. Allora io t'abbraccio, ancora complimenti Edoardo e speriamo a presto. Grazie ragazzi, a presto, buon lavoro. Ciao. Edoardo De Angelis, regista del film Indivisibili, in uscita in sala giovedì 29 settembre. Ritroviamo Maria Coletti, curatrice della rassegna femminile plurale al Cinema Trevi, qui a Roma, il primo e il 2 ottobre. Maria, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a te Federico. Allora, anche il tuo lavoro seguo sempre con interesse, questa è una nuova rassegna al femminile, raccontaci un po' Maria. Sì, diciamo che ogni tanto provo a portare avanti un po' i miei pallini, no? Cinematografici. Insomma, qui alla Cineteca Nazionale, quindi nella sala della Cineteca Nazionale, che è il Cinema Trevi, abbiamo pensato di riprendere a fare un po' le fila di un discorso già iniziato un po' di tempo fa, che era cominciato con La Sottilinea e la Rosa, di cui abbiamo fatto 3 edizioni, quindi erano, diciamo, delle rassegne molto lunghe dedicate essenzialmente al cinema delle donne. Riflettendo un po' su questo, poi in realtà ci è venuto in mente che poteva essere utile lanciare degli appuntamenti mensili che fossero però un po' po' più aperti, no? Quindi diciamo il pacchetto, in realtà il titolo è Visioni sociali, e l'idea quindi è di fare ogni mese più o meno un appuntamento su 8 parole chiavi, quindi 8 appuntamenti e 8 parole chiavi, per, come dire, avere un laboratorio in continua mutazione, no, di cinema, che sappia quindi incrociare generi, formati, documentario, finzione. Mi sembrava importante per me partire con questa, per questa nuova, diciamo, per questo nuovo appuntamento con il femminile, perché comunque mi sono resa conto che ci sono moltissime registe molto brave, e ci sono molti film che magari sono usciti ma non hanno avuto forse abbastanza visibilità, no, poi nelle sale, oppure che vale la pena rivedere. E quindi appunto femminile plurale, perché come dire, abbiamo ripreso, e quindi avremo modo di rivedere, o di vedere, perché ancora non l'avessi visto, alcuni film importanti, a volte opere prime, come il caso del Primo incarico di Ostidiana, o anche di invece registe più affermate, come Tutto parla di te di Alina Marazzi. Diciamo, l'idea era quello di dare appunto un caleidoscopio, no, di personaggi femminili che aiuti un po' a dare conto sia della storia in qualche modo del femminile in Italia, ma anche di come le registe in qualche modo hanno raccontato il loro presente attraverso personaggi femminili. Sì, poi appunto, diciamo, in realtà come dico anche nella presentazione dell'evento, diciamo, non, ovviamente non deve, questi appuntamenti e queste due giornate in particolare ovviamente non vanno intesi come un percorso esaustivo, no? È sì, semplicemente sì. Sono degli spunti, ovviamente c'è tantissimo altro, però sono degli spunti ovviamente dettati un po' dal mio gusto e un po' dalla volontà di andare a riprendere film che magari non abbiamo comunque rivisto da un po', non abbiamo presentato al Cinema Trevi, e che insomma mi fa piacere far vedere o rivedere al pubblico. Ci sarà modo di incontrare in qualche occasione le autrici? Guarda, per ora diciamo questa rassegna è nata un po' proprio come contenitore, come proiettore, quindi come spazio per poter vedere e rivedere i film, quindi diciamo in questo appuntamento, in questi due giorni non ci saranno in realtà gli incontri con le registe. Okay. Vediamo magari se nei prossimi si riuscirà a fare qualcosa di più complesso, ancora di più grande, magari facendo anche degli incontri, però ecco, mi invito veramente a venire, perché si tratta appunto spesso di veramente piccoli piccoli capolavori, piccoli gioielli insomma del cinema italiano, che sono magari che vale la pena rivedere, ecco. Tra l'altro la prima giornata, quella di sabato, un po' per caso in realtà e poi un po' per scelta, potremmo dire, per chi ha la pazienza di vedere tutti e tre i film, potrebbe essere un percorso nell'Italia dagli anni 50 del Primo incarico della maestra, appunto nel paesino della Puglia negli anni 50, passando per gli anni 60 della sperimentazione artistica di Maria Pellegiano, pittrice napoletana, e per finire poi con gli anni 70 di questa storia appunto italo-finlandese, L'amore di Maria di Anna Rita Ciccone, che racconta in qualche modo, no, una storia in parte autobiografica, ma che, come dire, ci fa ricordare un po' gli anni 70 e, come dire, la differenza a volte, anche lo scontro fra culture, no, che ci può essere fra donne che magari hanno fatto un percorso di libertà personale e che poi si trovano comunque costrette a dover fare conti con una realtà diversa, una realtà sociale che non era quella che si aspettavano. Sì, sì, sì. Senti Maria, tutti i riferimenti per saperne di più? Allora, c'è un evento Facebook che si chiama appunto Visioni sociali femminile plurale, e lì trovate appunto tutte anche le schede dei film, vari spunti di critica, insomma elementi anche per capire, per scegliere o comunque per decidere di venire a vederli, e quindi essenzialmente quello. Ovviamente poi anche sul sito della Cineteca Nazionale, Cinema Trevi, c'è tutta la programmazione. Ricordo tra l'altro che da un po' di tempo tutte le nostre proiezioni sono a ingresso gratuito, quindi un'occasione in più per venire a fare una buffata di buoni film. E poi così, non so se posso, magari ti lancio anche un po', ricordo qualcosa anche sul secondo giorno di programmazione, che dici? Va bene. Che perché è un po' più calibrato sul presente, diciamo un cortocircuito fra passato e presente, perché abbiamo nel pomeriggio due documentari, uno storico, considerato il primo documentario femminista, diciamo, su quindi la condizione femminile in Italia, che è l'aggettivo donna, che ho voluto mettere un po' così a far reagire con invece il corpo delle donne, che molti di voi conosceranno, questo corto documentario fatto da Lorella Zanardo e Marco Marfi Kindemi, scusa, sul, diciamo, l'immagine della donna nella TV italiana, quindi, come dire, un grande cortocircuito che però ci può aiutare a capire anche a che punto siamo. Sempre sul versante documentario, alle 18 invece ci sarà Cadenas, che è un interessantissimo documentario, anche questo mi pare opera prima, di Francesca Balbo, che affronta un mestiere antichissimo che ancora resiste in Sardegna, cioè quello delle guardabarriere, quindi dei passaggi a livello di una vecchia linea ferroviaria, che è un mestiere che si tramanda, diciamo, di generazione in generazione tutto al femminile, quindi sono le donne che lo portano avanti. Diciamo, per chiudere invece sul presente, abbiamo Il mio domani di Marina Spada e Tutto parla di te di Alina Marazzi, due registe che molto, diciamo, che hanno sicuramente uno stile, una visione molto particolare, che vale la pena quindi appunto venire a scoprire o a riscoprire per chi già avesse visto delle cose, molto più, diciamo, calibrati sul presente, sulle nostre città e anche su, soprattutto per la Marazzi, sul discorso poi tutto legato anche alla maternità, che è un po' filo rosso della, diciamo, della sua filmografia, anche se in questo caso si confronta forse per la prima volta con, diciamo, con la finzione, avendo fatto per lo più opere di, diciamo, documentario, di docufiction. Sì, sì, sì. Tra l'altro, se non sbaglio, sono tutti lavori che abbiamo avuto ospiti qui alla trasmissione di Visionario. Beh, quindi mi fa ancora più piacere. Evidentemente abbiamo gusti simili. Sì. Allora, Maria, un abbraccio, ci sentiamo per le prossime novità. Sì, vi invito a venire veramente e poi ci aggiorniamo per i prossimi appuntamenti. A presto, ciao. Ciao, grazie a te. Maria Coletti, curatrice della rassegna femminile plurale al Cinema Trevi qui a Roma, 1° e 2 ottobre. Bene, siamo in collegamento con Irene Dionisio, regista del film Le ultime cose, anche questo in uscita in sala oggi, giovedì 29 settembre. Irene, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Tutto bene? Mille. A parte il fatto che sei come una trottola. Sì, per l'uscita, ieri c'è stata la prima torinese e oggi Milano, domani Roma, quindi sarà un bel giro. Senti, un film, un inizio che sembra quasi un documentario. Ci racconti un po' di questa nuova avventura, Irene? Sì, allora, io appunto prima di questo film ho fatto due documentari. Sì. E chiaramente il mio strumento finora era stato quello, quindi quando mi sono approcciata al fatto di fare un film di finzione ho naturalmente usato gli strumenti che conoscevo di più per arrivare poi a un risultato forse un po' che ha delle ibridazioni, ma questo sì, credo che sia abbastanza normale e anche in verità molto diffuso in Italia ormai. Sì. E poi in questi giorni è proprio il momento della polemica in cui si parla di confronto tra di cosa cambia tra un documentario e un film, sì, visto sì, quello che è appena successo con Fuoco a Mare. Io appunto sono arrivata a questo film proprio perché mi sono documentata come avrebbe fatto un documentarista che approcciava la tematica in un luogo, e quindi la mia sceneggiatura ha molto di questa parte di documentazione, naturalmente poi anche su con gli attori e nelle fasi di recitazione appunto, e non solo di casting, ho cercato anche di mantenere un po' quell'approccio lì. Senti, il cast è provenienza teatrale? Allora, il cast sì, nel senso che però sono anche tutti attori di grande bravura e conosciutissimi a teatro, ma anche dei bravissimi attori di cinema perché, certo. Fabrizio Falco, Roberto De Francesco, Alfonso Sant'Agata sono già molto visibili, e Salvatore Cantalupo sono visibilissimi al cinema, sono anche dei bravissimi attori di teatro. E quindi in qualche modo In più, oltre a questo, essere dei bravissimi attori, almeno per me, incarnavano perfettamente quelli che erano i reali personaggi che volevo mettere in scena, quindi in qualche modo hanno molto dei personaggi nel film e c'è molto di loro stessi nel film. Sì, quindi... sì. Proprio a proposito dei personaggi, un altro elemento che ricorda l'approccio documentario è tutta la descrizione di tutta quella fauna che ruota intorno a un Monte dei Pegni. Certo, sì, nel senso che io chiaramente avrei potuto fare un documentario in qualche modo, mi sarebbe in qualche modo stato precluso una parte di questo, certo, di questo luogo, proprio sia per motivi di sicurezza da una parte, sia per motivi legati proprio alla privacy delle persone. E quindi in qualche modo ho deciso che, siccome per me era importante mostrare il luogo in maniera più prismatica possibile, quindi cercare di farne vedere tutti i lati, ho optato per appunto la finzione, ma cercando di tenere all'interno, nella descrizione del luogo, tutto ciò che ero riuscita ad osservare mentre ero lì. Mm-hmm. Quindi tutte le parti nel luogo sembrano molto documentario, se così possiamo dire, però cercano di trovare una realtà molto profonda nell'osservare le persone che sono lì dentro. Sì, sì, sì. Senti, per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve il tuo film? aiuto. Allora, secondo me, da quello che ho capito, perché poi un film appunto lo capisci facendolo vedere, capisci, certo, anche le reazioni, certo, molto, no? Mm-mm. Per me è un film molto asciutto e diretto, che secondo me deflagra in un secondo momento. Sì, sì, sì, sì, sì. Questo è il mio punto di vista. Poi è quello che mi è stato detto dal pubblico che finora l'ha visto. Quindi... Mm. Senti, come era nato il progetto? Allora, il progetto è nato perché diciamo che io avevo voglia di raccontare in un solo luogo quelle che erano le dinamiche economiche. Sì. Quindi, facendomi tutta una serie di domande, sono poi arrivata a pensare: chissà che cosa è successo al Banco dei Pegni, come è diventato il Banco dei Pegni, cambiato, non è cambiato rispetto all'immaginario che avevo. Quindi sono stata per la prima volta al Banco dei Pegni di Torino 4 anni fa e ho iniziato appunto a starci dentro, a osservarlo. È stato molto interessante. Ecco, da questa osservazione che realtà hai individuato? Com'è la vita intorno e dentro un Banco dei Pegni? Sì, non è semplice dare una risposta. Lo faccio attraverso il film, cerco di farlo attraverso il film. È un luogo veramente pieno di sfaccettature e soprattutto di punti di vista. Questa è la cosa che mi ha molto colpito. Ieri, per esempio, alla prima torinese c'erano in sala sia l'istituzione del Banco dei Pegni, sia diciamo, i compratori di bolletta, cosiddetti ricettatori che lavorano attorno al banco. Ed è stato interessante perché entrambi ne hanno visto un aspetto completamente diverso. Quindi secondo me è una cosa che può emergere, che è proprio un posto con veramente tantissime sfaccettature e non facile da prendere da un solo punto di vista. Senti, da oggi nelle sale con che modalità, Irene? Allora, il film è un film sicuramente che a mio avviso può arrivare a un pubblico, perché è un film che comunque non è un film diretto, quindi io è un film che penso che esce in 15 sale italiane più le altre usciranno la prossima settimana, quindi e io farò un breve tour per accompagnarlo con i miei attori. Diciamo che per me è una buonissima uscita per un film come Le ultime cose. Io sono molto contenta e spero che appunto questo weekend la gente vada il più possibile a vederlo, perché è l'unico modo per tenerlo il più possibile in sala. Allora, c'è anche una pagina Facebook, un sito internet di riferimento per saperne di più? Allora, su Cinecittà si trovano tutte le informazioni su tutte le sale. diciamo che sarà, il film sarà presente a Torino, Genova, Milano, Roma su tre sale, Napoli, sicuramente Salerno, poi arriverà a Bolzano il 3 agosto ma per una sola il 3 ottobre per una sola proiezione. E se è possibile trovare però tutto l'elenco diciamo esatto sul sito di Cinecittà. Quindi lì è possibile vedere tutte le sale. Benissimo. Allora Irene, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Grazie ciao. Mille. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Irene Dionisio, regista del film Le ultime cose, in uscita in sala oggi giovedì 29 settembre. In collegamento con Jay Weisberg, direttore della 35esima edizione delle giornate del cinema muto a Pordenone dal 1 all'8 ottobre. Jay, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buona giornata. Un festival che seguiamo ogni anno, ci fa piacere, ne siamo molto contenti. Allora, per chi ci ascolta, ricapitoliamo un po' quali sono le caratteristiche di questo festival, Jay. Certo, siamo un festival, questo è il nostro 35esimo edizione, sempre con musica viva, questo è una delle nostre forze, perché con ogni proiezione abbiamo non solo i pianisti, ma anche quest'anno abbiamo due orchestre, il Conservatorio da Trieste, quindi è una cosa più come era nell'epoca del cinema muto. Sì, sì, sì. Senti, quanti sono le opere presenti in questa edizione? Per esempio per la serata d'apertura abbiamo il film con Greta Garbo e la Donna Misteriosa con un'orchestra di 61 musicisti, e anche la serata di chiusura abbiamo Il Ladro di Baghdad, il grande film di Douglas Fairbanks. Anche lì abbiamo riscoperto la partitura originale di 1924, quindi siamo molto fieri di presentare queste cose al nostro pubblico. Senti, per quanto riguarda i restauri, ci sono alcune opere già restaurate tra quelle che presentate in questa edizione? Assolutamente, abbiamo qualche restauri, per esempio il film, un grande film francese di Keane con Ivan Mosciucchi, ma una delle cose che sono molto emozionanti per me è un riscoperta di un film italiano di 1917, Nana, il romanzo di Emile Zola, con una diva italiana a questo momento abbastanza sconosciuto, Tilda Kasai. Questo film era riscoperto solo in Buenos Aires e abbiamo per la prima volta la proiezione qui in Italia. Senti, per quanto riguarda ogni giornata, quante sono le proiezioni musicate e in che orari? Ogni momento. Ogni momento. Le proiezioni cominciano alle 9 nella mattina e finisce verso mezzanotte, quindi per ogni proiezione c'è sempre musica viva. Bene. E con una sola orchestra che suona? C'è un'orchestra che proviene qui da Pordenone, l'Orchestra San Marco, sì. È veramente strepitoso, ma anche abbiamo pianisti che proviene da Inghilterra, Stati Uniti, Italia, Germania, anche in Messico. Ok. Senti, e per saperne di più sulla programmazione ci dai tutti i riferimenti web? Sì, assolutamente, sul giornata del cinema muto, anche Cineteca del Friuli. È tutto lì, tutto scritto, e siamo molto aperti. Abbiamo quest'anno un manifesto di Douglas Fairbanks con le braccia aperte. Per me questo è un buon segno, che siamo un festival molto aperto non solo ai nostri soliti gente, ma anche al pubblico in generale. Senti Jay, c'è anche una sezione di archivio nel vostro sito internet dove poter... Sì, certo, per edizioni precedenti, assolutamente. Bene, bene. Allora, ricordiamolo, a Pordenone dal 1 all'8 ottobre, i luoghi quali sono? Il Teatro Verdi di Pordenone. Okay. Anche abbiamo due pre-aperture, uno stasera a Udine e domani a Sacile. Ci sono anche eventi collaterali oltre alle proiezioni? c'è qualche discorsi per, abbiamo un programma per i giovani che si chiama il Collegium, e sì, ogni giorno alle 13 c'è un colloquio su qualche parte del programmazione, che anche questo è aperto per tutti. Benissimo. Jay, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, alla prossima. Ciao, grazie. Jay, ciao ciao. Buona giornata. Jay Weisberg, direttore della 35esima edizione delle giornate del cinema muto a Pordenone dal 1 all'8 ottobre. Alessandro Giacobbe di Academy 2 sulla distribuzione del film France, uscito in sala lo scorso giovedì 22 settembre. Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti. Allora, intanto ti chiedo com'è andata questa prima settimana di programmazione. Ma direi splendidamente, al di là di ogni più rosea previsione, anche perché il tempo dal punto di vista meteorologico non ci ha aiutato. Abbiamo avuto un altro weekend estivo, ma nonostante tutto questa prima settimana di programmazione ha portato in sala oltre 25.000 spettatori a vedere France, che direi che è un risultato di tutto rispetto. Allora, lo raccontiamo brevemente per sommi capi a chi ci ascolta, Alessandro? Ma sì, è una quello può essere interpretata da alcuni punti di vista. A me piace vederla come una bella storia d'amore, una bellissima storia d'amore che si svolge durante il periodo subito successivo alla Prima Guerra Mondiale. Un soldato francese si reca in Germania sulla tomba di un soldato tedesco e qui incontra la sua ex fidanzata, appunto la fidanzata del soldato tedesco ucciso, e che si domanda come mai di questa visita inaspettata. Da qui si dipana una storia all'inizio misteriosa e che poi diventerà una storia d'amore, quindi un classico melò. Non mi piace raccontare troppo, certo, perché tra mistero e sentimento e commozione, insomma, la storia è veramente affascinante, commovente, diciamo coinvolgente. Non è nuovo Ozon al melo, anzi è piuttosto pratico rispetto alla tematica, anche se ha una filmografia piuttosto variegata, e questo però riferimento a un periodo storico preciso e alla guerra mi sembra un po' una novità rispetto alla sua produzione precedente. Beh, direi di sì, diciamo che è un film completamente diverso dai suoi ultimi e in un certo senso ci ha sorpreso piacevolmente. E, diciamo che il periodo storico fa anche da sfondo interessante a un tema che comunque si dipana durante tutto il film, che è anche quello della problematica della guerra e quindi del rapporto tra i popoli in conflitto. E diciamo che qualcuno l'ha definito come un grande film di riappacificazione tra il popolo francese e il popolo tedesco, sulle vicende belliche ha sempre avuto appunto degli argomenti aperti sul tavolo, quindi anche un film estremamente pacifista, e anche questo, oltre alla storia d'amore, è tra i temi che sottendono un po' al soggetto del film. Senti Alessandro, come lo avete incontrato e come avete deciso poi di portarlo in sala in Italia? Ma dunque, come spesso accade per noi distributori, a volte si tratta di una vera e propria scommessa. Noi al Festival di Berlino del 2016 appunto abbiamo visto alcune immagini del film, pochi minuti per la verità, siamo stati subito affascinati da questo bianco e nero bellissimo, che a volte appunto poi si trasforma in alcune scene a colori, il pubblico poi scoprirà come mai, e ci ha subito intrigato. Ecco, queste poche scene ci hanno subito intrigato, abbiamo subito intravisto qualcosa di positivo pur attraverso poche immagini, e devo dire che siamo stati fortunati in questo senso, perché poi si è rivelato per essere un ottimo film veramente. Senti, da ancora in quante sale per quanto riguarda la distribuzione? Ma no, guarda, siamo usciti la settimana scorsa con circa 70 copie, quindi 70 schermi in tutta Italia, e visto il risultato contiamo di mantenere lo stesso numero di copie, lo stesso numero di schermi, pur in presenza di altre uscite importanti la prossima settimana. Mm-hmm. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sulle sale e sul film? Guarda, c'è la pagina Facebook di Academy 2, chiaramente il mezzo più veloce, oppure abbiamo anche il sito www.academy2.it, quindi su entrambi ci saranno poi gli aggiornamenti sui movimenti del film. Ma direi la pagina Facebook è forse quella più immediata. Alessandro, io ti ringrazio, ci sentiamo allora per le prossime novità. Grazie mille per avermi ospitato anche questa volta, un saluto a tutti gli ascoltatori. A presto, ciao Alessandro. A presto, arrivederci. Alessandro Giacobbe di Academy 2 sulla distribuzione del film France di François Ozon, uscito in sala lo scorso giovedì 22 settembre. Federica Di Giacomo, regista del documentario Liberami, in uscita in sala oggi giovedì 29 settembre. Federica, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Nel traffico romano. Nel traffico romano. Allora, per chi è all'ascolto, Liberami, che cosa racconta questo doc? Ma è un film documentario sul ritorno della pratica esorcista nel nostro contemporaneo. In realtà è un racconto che si svolge fra Palermo e Catania della vita di alcuni preti esorcisti e di alcune persone che frequentano queste messe, ma è anche un racconto sul disagio, sulla possessione intesa come metafora di tante altre possessioni che ci sono nel nostro mondo. Quindi non è un film horror, è un film sull'umanità principalmente. Allora, vedendolo, Federica, l'impressione è che intanto tutto si svolga in un ambiente piuttosto rozzo dal punto di vista culturale, e poi che manchi comunque un servizio sanitario che fornisca un supporto psicologico a queste persone. Ma in realtà è stata una casualità, nel senso che io ho girato a Palermo perché ho trovato una chiesa frequentata da moltissime persone che venivano dalla Sicilia, ma lo stesso fenomeno si può trovare ovunque ormai, anzi a Milano per esempio hanno raddoppiato il numero degli esorcisti, hanno messo anche un call center, e la cosa si sta diffondendo in tutto il mondo, quindi non è una questione di estrazione sociale, e anche diciamo il fatto dell'accesso a strutture sanitarie non è solo un problema di come dire mancanza di possibilità di andare dallo psicologo e dallo psichiatra, perché molti di quelli che ho conosciuto ci sono stati. C'è un discorso più profondo sulla distinzione fra disagio psichico e disagio spirituale, che nel nostro mondo capitalista e consumista sta riemergendo in modo forte. C'è proprio una ricerca di senso che non so quanto le strutture sanitarie possano soddisfare. Ecco. Mm-hmm. Da dove viene la spinta a questo lavoro, Federica? Ma io cercavo storie sulle ossessioni in tempo di crisi, e a un certo punto lessi questa notizia proprio sul giornale di un corso di formazione per preti esorcisti, e mi sembra così assurda la notizia che iniziai a investigare, a cercare di capire. Io stavo in Sicilia e ho cercato dei preti lì che mi spiegassero come funzionava, e la cosa stupefacente fu che mi spiegarono che era la domanda a essere assolutamente in crescita, cioè tantissime persone si rivolgevano a loro per essere liberate da qualcosa che pensavano essere diabolico, e quindi addirittura gli esorcisti non bastavano, tanto che addirittura insomma siamo arrivati a nominare un esorcista per diocesi. Un altro elemento, Federica, vedendolo l'impressione è che però la presenza della videocamera abbia funzionato un po' da amplificatore. Questo è un discorso interessante, nel senso è chiaro che sempre più come dire, la videocamera esiste e le persone sono coscienti che la videocamera esiste, però in questo caso, siccome loro vivevano qualcosa di molto più forte che l'esposizione alla videocamera, cioè l'esposizione a una pratica esorcista, una sorta di alienazione da loro stessi, allora paradossalmente è diventato quasi più facile per loro farsi filmare quando erano in crisi che nella vita quotidiana, perché quando erano in crisi anche loro sperimentavano uno stato diverso, anzi poi ci cercavano per vedersi, per rivedersi, per capire che cosa stava succedendo. In un certo senso la videocamera più che amplificatore ha funzionato come cioè, si è inserita proprio in un percorso di comprensione anche per loro. Ho un'altra impressione, è che in alcuni casi, in quelli che hai seguito più da vicino, l'ambiente circostante abbia funzioni come terreno di coltura proprio di questo disagio. Ma io ho riscontrato, come dire, io non sono cattolica, quindi il mio punto di vista era laico, sì. Ed è laico. Però devo dire che spero che emerga nel film, ci sono tanti aspetti che sono legati al disagio e che costituiscono un possibile sollievo, cioè anche il fatto che loro stiano comunque, vengono accettati in una comunità, riprendono un percorso spirituale e soprattutto non vengono giudicati, nel senso loro possono avere crisi, buttarsi per terra, aggredire un prete, sfogare la rabbia in un momento catartico e poi tornare a casa tranquillamente e non essere giudicati in modo troppo negativo da chi li vede. Sì, e questi però sono l'ambiente, tutti aspetti che, l'ambiente che intendevo però è proprio la famiglia di provenienza. Ah, la famiglia, beh certo, come dire, molte famiglie si ricompattano davanti a questo problema e iniziano un percorso spirituale insieme. C'è da dire che molti di loro non sono non vengono da famiglie ipercattoliche, le stesse famiglie che stanno nel film sono famiglie che si sono riavvicinate alla Chiesa in un momento difficile, quindi è chiaro che ci possono essere dei tessuti di disagio psicologico, di combinazioni particolari all'interno di ogni famiglia. La cosa interessante è che chiaramente nel momento in cui c'è un disagio così strano, allora tutti stanno più accanto alla persona che soffre. In questo senso nel film vengono fuori alcune dinamiche familiari particolari, però è anche vero che sono dinamiche familiari che ci sono, insomma, che ci sono proprio nel nostro contemporaneo, perché come spesso dicono anche i preti, la disgregazione, cioè quello che muove di più il disagio è la disgregazione della famiglia tradizionale, e quindi ci si trova sempre più soli e non si hanno punti di riferimento, quindi la Chiesa ritorna a fare quello che prima faceva la famiglia, e quindi a dare un tipo come minimo di accoglienza, ecco, di ascolto, perché il prete è gratis, cioè, sta disponibile tutto il giorno, non addirittura io ho incontrato un prete che aveva un circuito di videocamere a circuito chiuso, perché gli arrivavano i posseduti a tutte le ore e lui e gli spaventavano gli altri fedeli, e quindi è anche un atteggiamento da parte di chi cerca questo tipo di cura che è estremamente ansiogeno. Le persone hanno bisogno di essere curate, hanno bisogno di essere sollevate. Senti Federica, frequentando questo universo, che impressione ti sei fatta? Mi sono fatta l'impressione che in realtà siamo, cosa che già pensavo, siamo molto meno lucidi di quanto pensiamo di essere. la nostra, questa società così individualista, per cui che ci propone sempre un modello di razionalizzazione continua dei nostri stati emotivi, non funziona più di tanto, e quindi riemergono dei riti catartici, non è solo quello dell'esorcismo, ce ne sono tantissimi altri. Ora si pratica, per esempio, va di moda l'ayahuasca, e sono 3 giorni in cui si prende una droga, si vomita e poi si ritorna a lavorare. Quindi l'ideale di lucidità mi sembra un po' in crisi, ecco. Senti, da oggi nelle sale che uscita sarà? Noi siamo un piccolo film, tra l'altro siamo un film documentario, e quindi usciamo in 9 sale all'inizio: Firenze, Roma, Milano, Bari, Napoli, Padova, Perugia. E chiaramente per noi, come per tutti, è fondamentale la passaparola e il fatto che le persone insomma portino altre persone al cinema, perché il primo weekend è quello che poi determina la vita di un film, che rischia proprio di morire, diciamo, dopo pochi giorni. Sì, sì, sì. Quindi ci auguriamo che vadano tutti al cinema questo weekend. Un'ultima cosa, Federica, come già accennavi tu e come è scritto anche nei prima dei titoli di coda, è una realtà che a livello internazionale è sempre più diffusa, quindi è un malessere che fa parte proprio del della nostra società attuale. Beh sì, d'altronde, come dice, come padre Cataldo ha detto durante la proiezione a Palermo, che sarà molto interessante, solo in Sicilia ci sono 1600 maghi e ci sono solo 30 esorcisti, quindi in un certo senso questo combattimento spirituale fra l'occulto, l'esoterismo, la chiesa, insomma, diciamo, il campo del disagio spirituale, del disagio non categorizzabile con le nostre, diciamo, come pensavamo prima, si sta ampliando in tutti i paesi, anche nelle Filippine, nei paesi latinoamericani, addirittura in Francia. Bene, Federica, io ti ringrazio, speriamo di risentirci presto e in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao. Ciao, a presto, Federica. Ciao. Federica Di Giacomo, regista del documentario Liberami, in uscita in sala oggi giovedì 29 settembre, e questo era l'ultimo dei collegamenti previsti per oggi per Visionari. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronico è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio. Sull'home page c'è Ascolta la diretta.